Amore, vieni a prendermi stasera, con questo vento caldo di primavera. Amore, vieni a prendermi, tienimi con te, un'altra notte ancora. Amore, non lasciare queste mani, se te ne vai domani morirò. Ma se proprio devi, la morte ingannerò per rivederti ancora. Ma tu stanotte tienimi più forte, fammi dimenticare che domani all'alba ti vedrò partire e non saprò capire perché l'amore non è bastato a farti rimanere. Per te affronterei qualsiasi prova, all'inferno scenderei, ma non chiedermi mai di non amarti più, perché in quel caso fallirei. Ma tu stanotte stringimi più forte, fammi dimenticare che domani all'alba ti vedrò partire e non saprò capire perché l'amore non è bastato a farti rimanere. E forse un giorno, amore, scopriremo che tutto questo dolore è stato in fondo solamente un'illusione e resterà solo l'amore. Ma tu stanotte fammi l'amore più forte, aiutami a sognare che domani all'alba mi sveglierò con la tua mano sul mio e con gli occhi miei ancora dentro i tuoi.